nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica, speriamo energizzante per tutte voi che vi state godendo un po' di relax. Lo sapete, noi qui la domenica parliamo di lavoro, ma con l'intenzione di renderlo più leggero il lunedì, il lavoro, proprio per smontare i pregiudizi che spesso appesantiscono la vita di chi lavora. Cerchiamo di farlo guardando al punto di vista femminile e ricordando a tutte noi, a me per prima, che caricarci le giornate di 100 cose cercando di farle tutte bene, vale a dire facendo del multitasking l'obiettivo della nostra vita, è una solenne fregatura che ha complicato le nostre vite, che ci è stata venduta come una grande figata, ma in realtà è una zavorra. E in più, lo diciamo tutte le domeniche, ma lo ripetiamo perché magari non fa male, ecco, il multitasking, lo dice lo neuroscienziato dell'MIT Earl Miller, fa proprio male al cervello. Ciò detto, c'è un altro pregiudizio che questa domenica proveremo a scalfire. Tra i pregiudizi che resistono da quando io ero bambina c'è quello secondo il quale una madre che non lavora e che quindi può dedicarsi alla cura dei figli, della famiglia, assicura ai figli medesimi un migliore equilibrio, un bilanciamento migliore. Questo è un pregiudizio, secondo alcuni invece no, è una certezza, una convinzione, però è un pregiudizio che resiste da decenni, nonostante appunto da decenni, anche faticosamente, in Italia almeno, le donne abbiano ormai, diano ormai per scontato che lavorare serve, è utile e comunque talvolta è indispensabile al bilancio familiare. Tuttavia, mentre la certezza di dover spesso lavorare per ragioni economiche, se non soltanto perché si vuole lavorare, è un dato di fatto, resiste il senso di colpa. Il senso di colpa delle madri che lavorano resiste ed è molto difficile sradicarlo. Ci prova uno studio della Harvard Business School. Questo studio sostiene che avere una madre lavoratrice significa trasmettere ai figli alcuni codici che ai figli saranno poi utili per affrontare un contesto sempre più competitivo, un contesto in cui veramente non si capisce bene che cosa sarà il lavoro tra 20 anni o 30 anni. Certamente lavorare implica una serie di aspetti anche spiacevoli, la frustrazione di sentirsi dire no, il contatto, la relazione con colleghi, con i capi, tutte cose che comunque vada il mondo del lavoro, comunque si sviluppi nel futuro, rimarranno. Ebbene, una mamma lavoratrice, sostiene lo studio della Harvard Business Review, trasmette ai figli degli esempi e anche delle conoscenze che li aiuteranno a loro volta a inserirsi meglio nel mondo del lavoro. Sempre secondo questo studio della Harvard Business School, sono soprattutto le figlie a trarre beneficio dall'esempio positivo della mamma lavoratrice. In media, le figlie di mamme che lavorano guadagnano il 4% in più rispetto alle figlie di madri che hanno fatto un lavoro ma a casa. Sono molto curiosa di sapere se il nostro agente provocatore di questa settimana condivide o smitizza a sua volta lo studio di Harvard Business School. Benvenuto ad Antonio Polito, vice direttore del Corriere della Sera, nonché autore di un saggio molto interessante, Contro i papà, come noi italiani abbiamo rovinato i nostri figli. Buona domenica, Antonio. Buongiorno. Allora, non è sempre colpa delle madri che lavorano. Se fossero i padri troppo teneri a fare il male dei figli, viziandoli o rendendoli appunto incapaci di affrontare le difficoltà del nuoto in mare aperto? Sì, sì, ma io infatti, come qualche volta ho detto, ho scritto un libro virile, nel senso di evitare i padri all'accettazione della nostra responsabilità. In Italia in genere si attribuiscono le responsabilità di ciò che non va con i figli al mammismo, no? Sì. Invece io trovo che il problema più grosso sia stato una certa abdicazione nel ruolo di, come dire, di autorità morale che i padri hanno tradizionalmente svolto, per cui per me tutte le occasioni che portano invece le mamme fuori nella società a lavorare, a produrre reddito, ad avere interessi, sono invece degli elementi riequilibrativi, diciamo, di questo rapporto, quindi li vedo con favore e tutto sommato mi sembra logica la conclusione dello studio che hai citato. Quindi non è uno studio inventato per tacitare i sensi di colpa delle donne che lavorano, quello di dire ma no, guardate che col vostro esempio poi le vostre figlie guadagneranno di più e i vostri figli saranno più disponibili a loro volta con le mogli nel prendersi cura dei bambini e nel dare una mano in casa. Io penso di sì. Intanto bisogna dire che in Italia il numero di donne che lavorano è molto basso, tra i più bassi diciamo del mondo occidentale. Proprio per questo senso di colpa, proprio perché a loro volta subiscono, no, dei lavaggi del cervello da parte dei mariti, da parte delle suocere, da parte delle madri, no? Sentirsi cattive madri se lasciano i figli con qualcun altro. Beh, innanzitutto perché non c'è lavoro e sì, naturalmente sì, questa cosa questa è prioritaria. Dei soggetti diciamo più deboli sul mercato del lavoro, come sono diciamo da sempre le donne. La seconda ragione è che il sistema italiano, avendo affidato tutto il welfare familiare sulla famiglia, quindi sulle mamme, invece che fornendo servizi come per esempio si è tentato di rafforzare in Francia, pensiamo, non so, agli asili nido, alle scuole pubbliche, eccetera, questo è stato un grande peso in più sulle spalle delle mamme, che quindi si sono presentate di meno sul mercato del lavoro. E la terza ragione da non dimenticare è un fatto culturale, cioè che in Italia gli uomini condividono meno che nel resto del mondo le responsabilità e le fatiche domestiche con le donne, con le mogli. Tutti questi elementi insieme hanno ridotto l'accesso delle donne al mercato del lavoro, con grave nocumento sia del mercato del lavoro e dell'economia italiana, sia anche, secondo me, delle famiglie. Perché anch'io penso che una donna che lavora abbia tutto sommato un rapporto più equilibrato e più sano anche con i figli. È un rapporto più equilibrato e più sano, ma spesso anche nevrotico, perché se non ha la possibilità di avere un aiuto in casa, proprio per la mancanza di strutture pubbliche, deve fare i salti mortali. I bambini con chi li lascia al pomeriggio, con chi fanno i compiti, a quale capo maschio lei può spiegare che deve scappare prima perché appunto c'è una riunione scolastica e il bambino ci tiene che la madre ci sia, perché il padre sicuramente non ci va. Tutta una serie di elementi che acuiscono il senso di colpa delle madri lavoratrici. E guarda, lo sai bene essendo vice direttore del Corriere della Sera, che questo è un dibattito che praticamente è rimasto uguale a se stesso negli ultimi 30 anni, non è cambiato molto. Questo è verissimo, la condizione della donna che lavora, della madre che lavora, è particolarmente gravosa, proprio perché si sommano i due compiti insieme. Io penso che ci siano due soluzioni, anche queste che vengono, diciamo, ci vengono proposte da paesi più avanti da questo punto di vista. La prima è quella della flessibilità, cioè bisognerebbe avere un uso il più ampio possibile del part-time, che particolarmente per le donne che lavorano può essere uno strumento molto interessante di partecipazione al mercato del lavoro. Naturalmente un part-time che non sia un sfruttamento, cioè che sia a parità di condizioni, non un part-time in cui diciamo quello che è part è più che il time dello salario. La seconda questione è la questione dei salari, degli stipendi, cioè del reddito delle donne che lavorano, che deve assolutamente essere parametrato a quello degli uomini. Ecco, nella tua esperienza personale, tu pensi che al padre, cioè al partner di una donna che lavora, l'idea che questa donna trasmetta un modello positivo ai figli è un dato che entra nel cervello degli uomini o no? Ma sai, io penso che nel mondo delle professioni, nel mondo e anche nel mondo delle famiglie più giovani questo elemento sia ormai acquisito. Oddio, non farei mai troppo affidamento sulla, diciamo così, sull'intelligenza e sulla modernità dei maschi italiani, che in questo senso sono sempre un po' più maschi e più maschilisti di quanto lo siano, non so, i maschi inglesi o francesi, perché è così, questo è un dato di fatto. Però mi sembra abbastanza più acquisito. Il problema non è tanto quello, il problema è poi cosa faccio io maschio per favorire il lavoro del femminile. Cioè, io sono anche d'accordo, è bene, è giusto che mia moglie lavori, però poi dopo, senti, io alle 6 del pomeriggio non posso comunque andare alla riunione degli insegnanti di mio figlio perché c'ho da lavorare, quindi cavatela tu. Ma tu, questo, per esempio, che hai una moglie che lavora e con i vostri due bambini e hai appunto un ruolo di responsabilità al Corriere della Sera, quante volte dici no, io non posso, fallo te? Lo dico, ahimè, lo dico, e naturalmente lo dico sapendo consapevolmente che sto sbagliando, e partecipo per quanto è possibile, però se ti devo dire nella bilancia del dare ad avere, certamente lei svolge il ruolo di genitore molto più di me, quindi eppure avendo anche qui, vedi, un ruolo di responsabilità che non è inferiore al mio, quindi diciamo, è proprio una questione culturale, noi su cui dobbiamo lavorare ancora molto, anche quelli di noi, quei maschi che ne sono consapevoli, devono ancora elaborare, diciamo, la realtà. Grazie ad Antonio Polito, il vice direttore del Corriere della Sera, il nostro agente provocatore di questa domenica. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, ha il record del mondo! Garozzo e c'è la stoccata, la conferma, la stoccata. Daniele Garozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci e vi aspetta Olimpia ogni domenica alle 20:30, naturalmente qui, su Radio 24. Nessuna è perfetta. Eccoci di ritorno, sapete che è il momento della nostra Sunday Girl. Chi sarà la Sunday Girl che commenta con noi lo studio della Harvard Business School? Benvenuta, buona domenica, la vicepresidente del Senato, Linda Lanzillotta. Dobbiamo ammettere... Grazie per la girl. Senatore o senatrice? Senatrice. Che la parola. Quindi sì. Una delle ragioni per cui è la nostra Sunday Girl è che lei è un po' il paradigma della donna che ha fatto molta carriera e che a sua volta ha una figlia che però ha scelto un lavoro totalmente diverso. Per darvi un'idea del curriculum del vicepresidente del Senato, è stata funzionaria dell'ufficio legislativo del Ministero del Bilancio, consigliera parlamentare alla Camera dei Deputati, assessore alla programmazione nella giunta Rutelli, capo di gabinetto nel secondo governo Amato, e sono solo alcuni degli incarichi che ha ricoperto. Le chiedo, lo studio della Harvard Business School, secondo il quale le figlie di madri lavoratrici diciamo ricevono dei codici, un imprinting che le aiuta poi a loro volta nella professione, è uno studio che la convince, che la rassicura, che colma dei sensi di colpa del passato, oppure non ci crede? Ma no, io penso che sia assolutamente logico questo, e che perché il modello femminile che si riceve, quindi anche l'assenza di una madre che lavora magari a certi livelli, di stereotipi, fa sì che nella crescita di una persona, di una bambina, le donne vivono in questo modo e quindi non hanno un modello quotidiano familiare, di relazione, di rapporto con l'attività di lavoro, nel rapporto tra famiglia e attività esterne, corrispondente a quello di invece di una donna che ha fatto scelte diverse, per cui la sua normalità sarà quella di donne che hanno autonomia economica, autonomia di giudizio e che puntano anche all'affermazione personale nella carriera. Quindi penso che sia assolutamente coerente con la realtà e lo vedo poi in via di pratica, vedendo anche le figlie di tante donne della mia generazione che si sono impegnate, forse si sono impegnate più di quanto oggi facciano le giovani donne, che hanno raggiunto un rapporto più equilibrato anche psicologicamente, e meno totalizzante. Esatto. Lei ha una figlia che ha scelto un lavoro totalmente diverso dal suo, fa la giornalista. Sì. Però con dei ritmi anche più che consentono di conciliare la cura dei figli, la presenza domestica, domestica relativamente, sì. Insomma, ma diciamo che le ragazze che sono cresciute in un ambiente, diciamo, di donna che lavora, penso non abbia quei complessi nei confronti della autoaffermazione che poteva avere la mia generazione. E cioè le generazioni che hanno dovuto combattere molto per affermarsi, diciamo la generazione Hillary Clinton e quelle successive, consideravano un dovere non far pesare troppo la maternità sul fronte del lavoro, mentre oggi una giovane mamma che lavora rivendica il fatto di essere madre. Assolutamente sì, ed è pienamente legittimo che a un certo punto uno dica no, contigo domani, oppure questa riunione si fa un'altra ora perché io a quest'ora voglio cenare e mettere a letto i miei bambini. Quando io mi incominciavo ad affermare nel mondo, per esempio, della burocrazia della Camera dei Deputati, dovevo quasi cancellare il mio essere madre, perché altrimenti venivo subito contestata. Ecco, vedi, una donna non può svolgere funzioni a questi livelli, e io ho avuto notevoli difficoltà, superate poi, come sempre fanno le donne, col doppio dell'impegno, col doppio della professionalità, che ovviamente in qualche misura andava al doppio della penalizzazione. E a volte ci si ritrova anche a subire delle critiche perché si cerca di essere mamme in una circostanza che può essere male interpretata. Per esempio, lei scrisse ai giornali per difendere il suo diritto di portare a scuola sua figlia, che allora era adolescente, con la macchina di servizio. Non era un privilegio, è che dice: io volevo evitare che prendesse il motorino. Come dire, una preoccupazione da madre che molte madri possono condividere, ma che poteva sembrare un privilegio, sì, certo, da casta. Nel senso che, siccome io non toglievo niente a nessuno perché facevo lo stesso percorso, quindi non è che spendevo, forse si usurava un po' di più il tessuto del sedile di dietro, ma quindi mi sembrava abbastanza logico che portassi a scuola con quella macchina e fare quello che avrei fatto comunque normalmente, perché io abitavo lontano, non volevo consentire a mia figlia il motorino perché per le ragioni che si possono intuire, e quindi mi sembrava normale. Questo attacco l'ho trovato appunto molto maschilista, no? Perché non si riconosce l'esigenza di conciliare vari aspetti della propria vita ad una donna. Quindi sì, mi ricordo, questa fu una vicenda in cui ci furono però poi commenti molto diversificati, era molto contestata la questione, e poi insomma anche l'uso di una ragazzina mi sembrava veramente di cattivo gusto. Cioè, come si sente come soffiare un vento un po' di controriforma, c'è molta voglia di dire vabbè, ma insomma noi che cosa abbiamo ottenuto con tutto questo femminismo? Ci facciamo ci massacriamo di lavoro doppio a casa e fuori, veniamo pagate meno, poi quando si tratta di fare una vera carriera per motivi vari, incluso il fatto che facciamo due lavori, non riusciamo a farla, ma loro tanto vale farsi mantenere come facevano le nostre nonne. Beh, e intanto le nostre nonne vivono una situazione, una condizione economica un po' diversa, non so se oggi la media dei maschi è in grado di mantenere una moglie con esigenze, diciamo, varie, più i figli, quindi oggi come oggi credo che sia anche un'esigenza economica. Ma poi quello che io penso è che noi sottovalutiamo le conquiste realizzate nel mondo occidentale e anche pensiamo a quello che sta succedendo in molte zone dei paesi in via di sviluppo, dove le donne hanno avuto da condizioni veramente disastrosi un miglioramento della loro vita, e quindi io non sottovaluterei quello che è stato, però io do una lettura un po' diversa, nel senso che i diritti, compresi quelli delle donne che si sono affermati dagli anni 60 e 70 in poi nel mondo occidentale, sono molto collegati a una fase espansiva e di crescita, certo, che non si è interrotta fino agli anni 2000. Ora che la fase espansiva sembra ridursi, le prime a dover pagare pegno sono le donne. Sono le donne perché sono più deboli, e le stesse donne che hanno votato Trump, quelle del Midwest, del Wyoming, eccetera eccetera, che sono parte di una crisi delle loro famiglie, i posti di lavoro, le fabbriche chiuse, l'agricoltura in crisi, hanno anche rivisto una scala di priorità e hanno votato Trump piuttosto che Hillary, perché non dobbiamo dimenticare che molte donne hanno votato Trump e molte donne che non hanno votato Trump però non hanno votato Hillary, quindi la realtà è un po' più complicata. Io credo che il cammino è ancora lungo, che noi stiamo assistendo a una fase di involuzione, di regressione dovuta molto alla crisi. Dal punto di vista, i dati del lavoro in Europa e soprattutto in Italia sono drammatici, la disoccupazione femminile è 20 punti superiore a quella degli uomini. Più che farsi sensi di colpa perché magari si sottrae del tempo alla famiglia, cioè il fatto che non c'è proprio tempo da sottrarre perché il lavoro non c'è. Il lavoro non c'è, cioè... ma vediamo anche un'altra cosa, e questo è un po' la miopia di una politica che non ha messo la questione del lavoro femminile come punto di agenda generale, non per le donne ma per il paese, perché noi vediamo che meno lavoro c'è, meno le donne fanno i figli. Noi siamo un paese ormai in denatalità, e questo significa che non c'è futuro se un paese, se non cresce la popolazione, certo, di un paese. Allora il punto è fare della questione del lavoro femminile, della sua promozione, di tutte le questioni di cui abbiamo sempre parlato, il talento, le capacità che quando sono a confronto con quelle degli uomini eccellono, un punto di agenda politica generale, cioè a noi serve per ricominciare a crescere e per ricominciare a fare bambini il lavoro delle donne, quindi è un problema di tutto il paese. È un problema di tutto il paese. In chiusura, proprio telegraficamente, di tutti i sensi di colpa di cui sicuramente sarà stata costellata anche la sua vita di giovane madre. Oggi, ripensandoci, parlandone magari a volte anche con sua figlia, che cosa pensa? Pensa di essersene fatti troppi pochi di sensi di colpa? Ma penso che per il tempo fossero i sensi di colpa giusti, e comunque non conosco donna che non ha convissuto con questa condizione del senso di colpa. Naturalmente poi ogni tanto i figli ci danno, anche loro lo usano, no, questo strumento, come sono noi l'abbiamo usato, certo, con le nostre madri. Io peraltro avevo una madre che lavorava, quindi ricordo bene di sensi di colpa quanto basta, e comunque non sono mai stati tali da farmi rinunciare a passaggi decisivi del mio percorso di lavoro. Certo, impostare la vita lavorativa in modo più essenziale, nel senso che io credo che il modello organizzativo del lavoro, anche ad alti livelli, anzi soprattutto ad alti livelli, è tutto maschile e comporta un'enorme perdita di tempo, soprattutto nelle istituzioni, nella politica, si fanno un sacco di chiacchiere inutili perché è tutto organizzato sulla base di una concezione maschile del tempo, che tanto c'è qualche un altro che pensa tutto il resto. Infatti. E quindi anche questo, io quando ho guidato delle strutture delle burocratiche, ho organizzato il lavoro in modo da tenere conto di questo e non costringere le donne a alzarsi a metà riunione o a dire no, io alle riunioni delle 18 non posso partecipare perché è l'ora della cena. No? Anche perché le riunioni si possono fare alle 9 del mattino e non alle 18. Comunque mettere un'ora di inizio e un'ora di fine, in modo che uno può organizzare il babysitter che non può stare lì indefinitivamente ad aspettare che una riunione inutilmente lunga poi finisca, insomma. Quindi anche le donne a certi livelli possono, nelle piccole cose, oltre che nelle grandi scelte, aiutare le altre donne. Speriamo che lo facciano. Grazie alla nostra Sunday Girl Linda Lanzillotta, vicepresidente del Senato. Grazie a voi. Grazie. Nessuna è perfetta. Eccoci di ritorno con le due esperte che questa settimana ci aiuteranno a fare chiarezza sullo studio della Harvard Business School, studio secondo il quale le figlie di madri lavoratrici hanno dei vantaggi non soltanto perché diciamo assorbono un modello, ma dei vantaggi pratici. Addirittura, secondo questo studio, le figlie che poi a loro volta sceglieranno di lavorare guadagneranno il 4% in più rispetto alle figlie di madri che non lavorano. E avranno anche maggiori possibilità di carriera. Vantaggi, sostiene la Harvard Business School, che si riflettono anche sui figli maschi, i quali saranno più propensi a rispettare il lavoro in generale delle colleghe, delle loro partner, e saranno anche più attivi nella vita familiare. Vero? Falso? Lo chiediamo appunto a due esperte, la professoressa Chiara Saraceno, sociologa esperta di tematiche legate alla famiglia e alle questioni femminili. Buona domenica, Chiara Saraceno. Grazie a voi. E lo chiediamo a Costanza Miriano, giornalista di Rai Vaticano, autrice di numerosi saggi, il primo quello che è stato oggetto anche di numerose polemiche, Sposati e sì, sottomessa, e l'ultimo, Quando eravamo femmine, un saggio che invita a riscoprire le radici della femminilità. Bene, io partirei subito con Costanza Miriano. Lo studio della Harvard Business School fotografa una realtà di buon senso. Probabilmente le figlie che crescono con madri che lavorano, diciamo, assorbono un modello che rende poi a loro più facile inserirsi nel mondo del lavoro, e i figli si abituano ad avere, come dire, un rapporto di maggior rispetto forse per le loro colleghe e per le loro partner. Sei d'accordo su questo? Ma ci sarebbe da parlare ora. Intanto io non sono un'esperta, ma prima di tutto sono una mamma di 4 e una mamma bilavoratrice, nel senso che oltre a farla giornalista di notte ogni tanto scrivo libri, quindi nonostante questo non sono una sostenitrice accanita della bellezza del lavoro femminile, perché credo che quando ne parliamo spesso di lavori gratificanti come magari il mio, quello della professoressa Saraceno, però io non dimentico mai le mamme, per esempio, delle compagne di scuola, dei compagni di scuola dei miei figli, che spesso sono commesse, impiegate e che faticano tantissimo a conciliare la vita lavorativa con, cioè, una recita natalizia per una dipendente di un centro commerciale può essere una tragedia se non comunicata con congruo anticipo. Cioè, noi dimentichiamo che il lavoro femminile è stata una conquista, secondo me, solo per una piccola parte di noi. È stato un privilegio, è una gratificazione, una gioia poter dare un contributo fuori dalla famiglia con i tempi e i modi, però in realtà la realtà è che il lavoro continua ad avere tempi e modi maschili, e le madri fanno una gran fatica, le madri che non sono professoresse giornaliste fanno una grandissima fatica a tenere insieme tutto. Quindi... Anche le giornaliste, credo, per mia esperienza personale. Sì, ma quindi qual è la soluzione? Raddoppiare gli stipendi ai maschi e lasciare le donne a casa, come un po' si fece in Italia negli anni 50-60, senza raddoppiare gli stipendi, ma la tendenza era di lasciare le donne a casa e scaricare sulle donne il welfare. Ma io penserei, cioè ripenserei il mondo del lavoro in termini femminili e materni, se una donna desidera essere madre. Quindi per esempio i primi 3 anni la possibilità di stare a casa con un sostegno economico secondo me sarebbe il minimo, e comunque 3 mesi è veramente una violenza sulle donne, cioè strappare, costringere una madre impiegata a tornare al lavoro 6-8 ore al giorno, quindi con un totale con gli spostamenti di assenze da casa di 8-10 ore da un neonato di 3 mesi, secondo me è violenza sulle donne. Vorrei sentire la professoressa Chiara Saraceno, perché poi noi dobbiamo fare i conti con una realtà, diciamo, del lavoro che ha in Italia, vede ovviamente le donne con percentuali bassissime rispetto ad altri paesi europei, due, con un mondo del lavoro che non sembra avviarsi verso la proliferazione di lavori, ma piuttosto verso la proliferazione di disoccupati. Sì, oppure sottoccupati e pagati poco, ecco. E che spesso non sono in condizione di prendersi i congedi, vuoi perché non ne hanno diritto, vuoi perché è troppo rischioso per loro. Cioè oggi molte donne non riescono a fare figli, a decidere di avere un figlio, se, anche quando lo desiderano. Però appunto la soluzione non è allora tutte a casa, perché a casa vuol dire non avere l'autonomia economica, non potersi uscire da un rapporto di coppia se questo rapporto va male o è cattivo, non poter anche fare altro oltre che essere una madre. Ed è vero che non tutti i lavori sono ugualmente gratificanti, però non è neppure vero che fare la commessa piuttosto che l'impiegata sia necessariamente una cosa brutta, negativa, che non piace, perché... Intanto c'è l'identità del lavoro che rafforza, come diceva prima il nostro agente provocatore Antonio Polito, sì. No? Cioè già il fatto di lavorare, cioè di provarsi a fare delle altre cose fuori, del provare che si è capaci qualsiasi cosa si stia facendo, le relazioni, la socialità. Ricordo alla collega giornalista che in Italia è possibile non tornare dopo i 3 mesi, anzi soprattutto adesso con la flessibilità del congedo di maternità si può stare a casa anche 4 mesi dopo la nascita, ma cioè, il problema non è che non ci sia il congedo, c'è almeno per le lavoratrici dipendenti più lungo, ma è poco pagato, quindi è su quello che bisogna ragionare, così come bisogna ragionare sul fatto che anche i padri potrebbero fare i padri, che pensi Polito, cioè che l'accudimento non è, quindi da questo punto di vista mi va benissimo un mondo del lavoro, chiamiamolo più femminile, ma nel senso che anche agli uomini deve essere concesso e sollecitato il diritto di poter stare a casa e occuparsi dei propri figli per un tempo più ragionevole di quello che abbiano spesso. Vorrei riportarvi poi sul tema di questa nostra puntata di Nessuna è perfetta, vale a dire avere una madre che lavora, che fa l'insegnante, che fa la commessa, che fa la giornalista o l'ingegnera nucleare, influenza positivamente il rapporto col lavoro che hanno sua figlia o suo figlio. Vorrei sentire Costanza Miriano su questo e poi la professoressa Saraceno. Io penso che influenzi positivamente una madre realizzata e serena, e io personalmente non traggo la mia identità dal lavoro, cioè non sarei felicissima di stare a casa e non ho bisogno di mettermi alla prova nel mondo del lavoro, quindi io non credo che uno tragga l'identità da quello, lo darei per assodato e messo in cantiere. Le donne possono presiedere fondi monetari, grandi aziende, ma per me è 100.000 volte più gratificante un'impresa molto più impegnativa e grande, quella di educare dei figli. E però passi la notte a scrivere libri, quindi vuol dire che trai delle gratificazioni anche quello, da questa tua identità di scrittrice, quello, no? Mi piace, ecco, se potessi farlo di giorno, essendo sollevata dal lavoro, quindi dal peso economico, perché la verità è che hanno preso due lavoratori al prezzo di uno, perché 40 anni fa si poteva lavorare solo il padre, a parte io contesto la interscambiabilità dei ruoli, cioè i padri non possono fare le madri nei primi mesi assolutamente. Comunque, tornando al tema dello studio, secondo me le figlie che vedono una madre che se la cava su più fronti, se la vedono serena, acquistano sicurezza, questo sì. Chiara Saraceno, avere una madre che lavora e che è contenta di farlo, può avere un influsso sulla carriera di una figlia? No, certamente ha un influsso sul modo in cui la figlia pensa a se stessa. Mentre cresce pensa a quello che potrà fare da grande, perché ha di fronte a sé un modello di donna che si è impegnata anche quando non è contenta, mi verrebbe da dire, nel senso che comunque sì, si vede che la madre magari lavora per mantenerla, per esempio, cioè che c'è, o per darle la possibilità di studiare e così via. Quindi sicuramente, ma esistono anche ricerche non solo di Harvard che mostrano come avere una madre occupata ha un effetto positivo anche in termini di minor rischio di essere disoccupati per i maschi che per le femmine, come fosse un incentivo, probabilmente c'è anche un fatto, come dire, di risorse. Avere una mamma occupata significa che mediamente, a parità del reddito del padre, ci sono più risorse economiche, ma anche più risorse di relazioni, di capitale sociale, e quindi questi figli partono con un po' più avvantaggiati rispetto a genitori a parità, ripeto, di condizioni del padre, in cui invece la madre non può fornisce altre cose, cura, non è un giudizio di valore, stiamo parlando solo della riuscita nel mercato del lavoro, e in effetti questi figli hanno più risorse, non solo monetarie, ma di relazioni, di modelli, di capitale sociale in generale. Costanza Miriano, è vero questo? Ma io ho tante amiche che possono permettersi di fare le madri a tempo pieno, magari laureate in filosofia o anche alla Normale di Pisa, cioè, non è vero che una madre che sta a casa può offrire solo cura rispetto a una madre che lavora, cioè il mondo non è fatto solo di lavoro, gli stimoli culturali che possiamo dare ai figli, andare in giro, vedere musei, esplorare il mondo, avere tempo per fare, non so, una torta, per stare con gli amici, per occuparsi della vicina di casa con la gamba ingessata, cioè in realtà io non credo che la nostra identità e la nostra capacità di relazionarci con il mondo dipenda dal mondo del lavoro. Io non credo, cioè credo che ci abbiano voluto far credere che comunque il lavoro sia comunque una cosa buona, e poi contesto anche il fatto che poi ci dia la possibilità di uscire da una relazione, in realtà è quello. Beh, l'indipendenza economica rende sicuramente una donna più libera, su questo. Beh, Costanza Miriano, figli, mi sentirei di spezzare una lancia. Però sicuramente i figli sono più felici se i genitori stanno insieme che se la madre è indipendente economicamente e si separa dal padre. Su questo proprio metterei la mano sul fuoco. Ecco, sono ovviamente d'accordo. Mi pare che avere due genitori che si vogliono bene piuttosto che avere due genitori che si accoltellano ma sono come dire, presidenti del Fondo Monetario Internazionale, tutti e due. Esatto. Questa è una verità che mi sentirei di condividere. E però, Chiara Saraceno, non è anche la fotografia di un mondo ideale quello che si vorrebbe, d'altra parte però non corrisponde alla realtà, nel senso che una donna che non ha un reddito e che vive una condizione di infelicità coniugale, perché magari è sposato con un uomo violento, non trasmette delle sicurezze ai figli, o mi sbaglio? Voglio dire, mi sembrano banalità tutte queste qui, mi sembra che sia un grosso fraintendimento. Io non ho detto che, dato che una donna lavora ed è economicamente autonoma, allora si separerà. Ho detto che essere economicamente autonomi, in caso le cose non funzionino, non funzionino malissimo e siano anche dannose per i figli, tra l'altro, se i due appunto si accoltellano, non si amano, si disprezzano reciprocamente, allora può uscire, cosa che invece non può fare o può fare con molta più difficoltà se non è economicamente autonomi. Così come non ho detto che il lavoro sia tutta l'unica forma di identità, è una delle facce dell'identità che si possono avere e che arricchisce complessivamente la personalità. Poi se una non lavora e ha tanti altri interessi va benissimo così, ma non capisco quale nemico si voglia costruire. E comunque il mondo è fatto di realtà molto complicate e tutte vorrebbero il matrimonio perfetto, ma non sempre ci si riesce, tutti vorrebbero, e poi soprattutto non si vive soltanto di matrimonio, non si può vivere solo l'uno per l'altra, perché appunto si è persone complesse, fatte a più dimensioni, per cui una relazione può essere molto importante, ma non necessariamente esclusiva. Io ringrazio Costanza Miriano, giornalista di Radio Vaticana, autrice di molti saggi, tra cui Sposati e sei sottomessa o Quando eravamo femmine. Ringrazio la professoressa Chiara Saraceno per essere state con noi questa domenica. Noi ci risentiamo tra pochi secondi. Grazie. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta. Nessuna è perfetta. Eccoci all'ultima parte di Nessuna è perfetta. Lo sapete, è il momento della lettera della nostra ascoltatrice. Questa di questa domenica ce la manda Benedetta. Buona domenica Maria, sono un avvocato d'affari, mamma di due meravigliose bambine. Dopo la nascita della mia primogenita, anche per le pressioni di mia madre e di mio marito, mi sono fatta convincere a lasciare il lavoro. Non le dico che calvario. Mi sentivo inutile, stressata e triste. Dopo la nascita della seconda figlia, al contrario di quello che fanno molte donne, ho deciso di ascoltare solo me stessa e sono tornata a lavorare. Mai scelta fu più azzeccata. Oggi mi sento appagata e felice di tornare a casa dalle mie figlie che vedo crescere autonome. Smettiamola di dire che una brava madre è quella che rinuncia alla propria carriera. Benedetta. Roberto Dincau, coach, headhunter, quali sono le pillole per Benedetta e per quelle che, come lei, stanno facendo il percorso inverso? Molte, dopo il primo figlio, lasciano il lavoro, lei dopo la seconda figlia è tornata a lavorare. Intanto buona domenica e buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, o viceversa. Io partirei da un esempio molto concreto che mi ha molto colpito, una donna famosa, Simonetta Agnello Horby, che nel suo libro La mia Londra parla proprio di questo tema. Dice: io ero un avvocato, a un certo punto su pressione familiare della madre, non del padre, e del marito, lascia lascia il lavoro e si occupa dei figli. I figli, fa tutto questo, questo cambiamento la sconvolge talmente tanto, perché in realtà voleva fare l'avvocato, che a un certo punto il figlio primogenito che dice: senti mamma, tu devi tornare a lavorare perché siamo stufi di averti a casa. Allora, lo dice molto simpaticamente, poi diciamo racconta poi la sua carriera di avvocato a Brixton. Allora, io dico che ci sono tanti equilibri quante sono le persone, in questo caso le donne. Il senso di colpa sicuramente è una cosa molto pesante e bisogna accorgersi se quello che pesa le nostre scelte è il senso di colpa, così come una cosa molto importante è il copione, cioè il retaggio. Allora andiamo familiare. Per pillole, sì, perché il sì, sistema pillole, è la pillola, la prima pillola. La pillola è no ai sensi di colpa. Se ci accorgiamo che il senso di colpa ci colpisce, bisogna veramente porre ripari. Lavorare di buon senso, perché il senso di colpa è naturale, è normale, è troppo facile dire no al senso di colpa. È ragionare intorno al senso di colpa e offrire come dire, delle risposte di buon senso. Sì, la seconda cosa è cercare di chiedersi: sta agendo un retaggio familiare / un copione familiare, cioè le madri, le figlie di madri che lavorano è più facile che siano donne che lavorano, perché hanno a loro volta vissuto un copione dove la madre lavorava e con grande naturalezza. Quindi se c'è un conflitto di questo tipo, chiedersi e dire: ah, attenzione, paletta rossa, forse qua sta agendo un copione o un retaggio che non funziona. Terza cosa, last but not least, veramente importante nel nostro paese, è la condivisione di questo tema con il partner, cioè nella scelta dello stare a casa spessissimo il partner... C'è una pressione del compagno, del marito, sì. Assolutamente, e quindi questa condivisione del fatto che invece... sia delle donne che hanno fatto degli studi, che hanno voglia di lavorare, di non mollare tutto col primo figlio o il secondo figlio, deve essere assolutamente condivisa col partner. È fondamentale, se non c'è il supporto del partner non si fa. E queste cose si decidono prima di fare i figli, ci si mette d'accordo prima, io questo non mi stanco di dirlo, i patti si fanno prima. Addirittura forse quando si sceglie il partner con cui fare un figlio, cosa dici? Sì. Io consiglio di parlarne al terzo appuntamento. Nessuna è perfetta termina qui, auguri, buona Pasqua e noi torniamo con una puntata speciale lunedì, domani, ma alle 11. Vi aspetto.